Europa 24. I vincitori tunisini del premio Nobel per la pace mostrano la via per risolvere le crisi nella regione. Questo è il commento del capo della diplomazia europea Federica Mogherini all'assegnazione del Nobel al quartetto per il dialogo nazionale tunisino. Come avete sentito nel nostro giornale radio, il premio Nobel per la pace al quartetto indica la via per risolvere le crisi. Crisi che intanto la Turchia segnala ancora la sua preoccupazione per l'arrivo di una possibile nuova ondata di profughi siriani. Intanto Nazareno Orlandi ci porta a Ciampino, sentiamo. Una grande vittoria per tutta l'Europa, l'ha definita così il commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Il piano di ricollocamento di 160.000 migranti dall'Italia e dalla Grecia è partito ufficialmente stamattina con il primo volo tra Ciampino e la Svezia di 19 richiedenti asilo arrivati a Lampedusa dall'Eritrea. Sul meccanismo dei ricollocamenti Avramopoulos ha precisato le modalità che saranno seguite dall'Europa. Relocation is not based on where someone wants to go. Questo piano non prevede che vadano ricollocati dove esprimono il desiderio di essere ricollocati. Nel ricollocamento verrà loro dato uno status giuridico, verranno accolti da paesi che in tutta l'Unione Europea forniranno ospitalità, supporto, un'atmosfera accogliente che li riceve in modo positivo. Le persone interessate devono sapere che se le regole non vengono rispettate, a quel punto non vanno nel paese in cui sono destinati per il ricollocamento, dovranno purtroppo rientrare da dove provengono. Soddisfatto anche il ministro dell'interno Alfano, che ha annunciato la partenza nelle prossime settimane di almeno altri 100 migranti dall'Italia verso Germania e Olanda. Questo aereo che è partito è stata una vittoria di tutti quelli che credono nell'Europa. Oggi ne sono partiti 19, in due anni saranno più di 40.000. Questo è un grande successo. Il primo step del piano di ricollocamento arriva all'indomani del vertice tra i ministri dell'interno dei paesi membri, a Lussemburgo. Sul fronte dei rimpatri hanno ribadito la linea dura contro i migranti irregolari e trovato una prima intesa sull'istituzione di una polizia di frontiera comune. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di brevetti europei presentati alle ONU, i dati delle domande europee e cinesi per la protezione delle invenzioni aziendali. Un doppio binario a flusso continuo tra Cina ed Europa, con le richieste di brevetti che viaggiano in entrambi i sensi. E dopo 30 anni di cooperazione tra i due uffici brevetti del vecchio continente e del paese asiatico, tra l'European Patent Office e il China State Intellectual Property Office, accelerano le richieste di aziende europee e cinesi che chiedono di proteggere le loro invenzioni in entrambe le aree. Grazie a scambi commerciali sempre più veloci e intensi, pari a 1 miliardo di euro al giorno, la Cina è il secondo partner commerciale dopo gli Stati Uniti dell'Unione Europea, che a sua volta negli ultimi 10 anni è stato il partner principale del Dragone. Il sodalizio collaudato tra i due uffici brevetti è un sistema che viaggia in modo uniforme e perciò indispensabile e facile per le imprese europee che vogliono esportare nel mercato cinese. Ma il brevetto europeo è strategico anche per le aziende cinesi, con il 33% in più di domande nella prima metà del 2015. Ed è boom anche per le aziende italiane. L'anno scorso hanno chiesto il brevetto cinese in 1978 e sono cresciute del 21,6% dal 2010. Ma la protezione dell'Europa è chiesta soprattutto in un settore chiave per i cinesi. La comunicazione digitale, la tecnologia informatica e le telecomunicazioni sono ai primi posti della classifica europea dei brevetti e viaggiano su binari protetti per le invenzioni reali e virtuali. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, ci risentiamo lunedì. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.